Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come cara Deborah, come stai? Tutto bene? Caro Mauro, mi sto interrogando effettivamente come sarà la modalità di spiaggiarmi come una foca quest'anno. Non si sa ancora bene. C'è no. Adesso un documento tecnico redatto da INAIL e Istituto Superiore di Sanità, è all'esame del Comitato Tecnico Scientifico, il quale trasferirà le sue indicazioni al governo. E poi ci diranno che cosa possiamo fare. Possiamo sì, andare in spiaggia. Sì, però il sindacato dei balneari già si è arrabbiato, come abbiamo appena sentito appunto nel corso del nostro giornale radio. Sì, sarà interessante capire. Era quel signore che l'aveva presa molto sportivamente, diciamo, con toni molto pacati. Ecco, giusto per dare l'idea. C'è ovviamente una fortissima preoccupazione perché c'è queste norme, queste disposizioni di distanziamento effettivamente sono un po' difficili da rispettare sulla totalità delle spiagge italiane. E non vabbè, fosse una che... delle tante prescrizioni ti piacerà perché pare che questo documento inviti anche intanto a pagare senza contanti tutti i servizi che riceveremo in spiaggia. Ah, è una. Sì. E poi... Questa ti piace? È una disposizione che mi sembra pensata dal ministro Gualtieri, non so perché. Però ecco, esatto. Più, dopodiché più tutte le altre ci hanno pensato le autorità sanitarie, infatti. Allora, raccontiamone qualcuna, tanto per continuare a far arrabbiare un po' le persone e ad immaginare la loro vacanza in questa modalità distanziata. Peraltro, Mauro, non so se tu ci hai pensato, ci chiediamo tutti in che modalità riusciremo ad andare in spiaggia quest'estate. È divertente che ci si occupi solo di spiaggia, ma mi pare che di montagna non si parli molto. Eppure anche lì vediamo dei gruppi che fanno le loro scarpinate e quindi sarà interessante capire che se anche in quell'ambito si interverrà o meno o se ci è sfuggito a noi, non lo so. Ma io credo che comunque per adesso vada mantenuto e confermato sempre il cosiddetto distanziamento sociale, che non so perché chiamiamo sociale, forse si potrebbe anche dire è solo fisico. E per cui un metro almeno di distanza. Per quanto riguarda le spiagge, che sono uno dei temi appunto di discussione in questo momento, allora bisognerà prevedere percorsi di transito differenziati per direzione, un po' come è stato chiesto ai negozi, da una parte si entra, dall'altra si esce, oppure si entra uno alla volta per evitare appunto, per ridurre al massimo la possibilità di contatto ravvicinato. Poi distanze, allora, ma si parla di una distanza minima tra le file di ombrelloni di 5 metri, tra gli ombrelloni della stessa fila di 4 metri e mezzo, quindi dovremmo avere tantissimo spazio per prendere il sole, chi di noi potrà entrare, verrebbe da dire, e anche chi di noi potrà muoversi da regione a regione, perché al momento attuale non sappiamo, vedremo che cosa decideranno le regioni dal 18, cioè da lunedì prossimo, vedremo che cosa bisognerà mantenere come limitazione allo spostamento, magari tra una regione e l'altra. Poi sempre mascherina indossata finché non si arriva all'ombrellone. L'ombrellone praticamente diventa come il domicilio, ecco, mettiamola così. Oh, però io ti vorrei aggiungere una cosa importante. Forse tu pensavi di andare in spiaggia e finalmente giocare alla lotteria degli scontrini. Sai che ma certo, era il mio obiettivo di quest'anno, ovvio. Oh, e invece no, neanche quello. Perché nel grande pentolone, ieri abbiamo utilizzato appunto, hai utilizzato questa questo sobbollire del pentolone per parlare del decreto legge rilancio. Nel grande pentolone del decreto legge rilancio c'è anche la proroga, il rinvio al 2021 della lotteria degli scontrini. Niente lotteria degli scontrini, puoi andare avanti serenamente a pagare con altre modalità, naturalmente tutte tracciabili preferibilmente, mi raccomando, certo. Prima che tengo poi scatti l'amnesia. Conto... tengo conto di tutti questi tuoi suggerimenti e me li custodisco almeno fino al 1° agosto, quando inizieranno i saldi estivi, perché quest'anno li vedremo solo a partire da quella data, secondo quanto ha stabilito la conferenza delle regioni e delle province autonome presieduta da Stefano Bonaccini, che è il governatore della regione Emilia Romagna. C'è stata questa riunione la settimana scorsa ed è partita anche questa disposizione. Allora, l'obiettivo è sacrosanto, si vuole consentire a tutte le attività che a causa del lockdown hanno subito pesanti cali di fatturato di poter recuperare in parte le vendite stagionali. Chissà se questa verrà considerata una buona iniziativa da parte dei consumatori, che in questo periodo non hanno potuto tanto bazzicare negozi di alcun tipo e quindi siamo un po' in arretrato di shopping, Mauro, e per i saldi dovrò aspettare quest'anno il 1° agosto e non più il primo weekend di luglio, che generalmente è quello che dà il via ai saldi estivi. E quindi, insomma, notizie su notizie di questa nuova vita che stiamo vivendo a causa di questa pandemia, tante le novità con le quali dobbiamo affezionarci purtroppo quest'anno. E invece i temi di Due di Denari di quest'oggi? Ah, guarda, oggi vorremmo parlare, facciamo un pochino innanzitutto di perlustrazione in questa nuova iniziativa Homo Covid, l'H non sì. andrebbe aspirata perché è latino, ma lo dico per far capire, Homo Covid, che sta sul sito di Radio 24, www.radio24.it, tra le iniziative speciali. Grazie all'abbinamento tra appunto Due di Denari, in particolare Deborah Rosciani, non so se la conoscete, e consumerismo.it, c'è la possibilità di avere tutta una serie di... Ho smistato qualche mail. Ma insomma, sono tutte cose importanti, sono i chiarimenti, per così dire, di base sulle cose che tutti ci siamo chiesti in queste settimane. Non so, le bollette, i mutui, che devo fare? Abbiamo un paio di casi che sottoporremo direttamente proprio a una sorta di sportello parlante di Homo Covid. Poi, se volete fare un giro sul sito di Radio 24, trovate tutta una serie di indicazioni via via arricchite giorno dopo giorno. Questo nella prima parte, perché nella seconda parte, cara Deborah, c'è un tema che ci piace un sacco. Parliamo di casa, parliamo di mercato immobiliare. Perché? Perché ne parliamo, Deborah? Ma perché, allora, probabilmente in questi mesi molte famiglie italiane hanno dovuto accantonare quel sogno che stavano coltivando in questo momento di comprare una nuova casa, e quindi cercheremo di capire, si è sicuramente paralizzata l'attività di tutti i professionisti del settore, a cominciare dai rogiti, che sono stati tutti quanti più o meno rinviati, ma chiaramente, per esempio, gli agenti immobiliari non hanno potuto far visitare i immobili in vendita potenziali compratori, e molte famiglie chiaramente che magari volevano coronare questo sogno proprio in questi mesi presumibilmente hanno dovuto rinviare questa operazione. Tutto questo si ripercuoterà anche sui prezzi, sulle quotazioni degli immobili in Italia. Che tipo di impatto ha avuto sul mattone la pandemia appunto da coronavirus? Faremo un bel punto della situazione questa mattina, come sempre, con ospiti di valore mondiale, a cominciare dalla nostra Paola Dezza del Sole 24 Ore, che è la massima esperta del comparto appunto per il nostro quotidiano, e poi avremo un portale di mediazione di domande e offerta, casa.it, che ci racconta delle cose molto interessanti, anche perché, Mauro, insomma, le famiglie in questo periodo che hanno dovuto sperimentare la convivenza, magari famiglie anche nutrite, importanti e numerose, e magari hanno pensato, ecco, se ci ricapita un'altra cosa del genere sarà bene cominciare a pensare che abbiamo bisogno di una casa più grande per disporre i nuovi uffici nei quali si lavora. Siamo molti in smart working e quindi abbiamo bisogno anche di case fatte in una maniera diversa, e quindi, insomma, si è un po' proprio concentrato un dibattito su questo comparto molto interessante. Sentiremo gli operatori del settore che tipo di evidenze hanno riscontrato in questo momento. I numeri per entrare in contatto con noi sono sempre gli stessi: 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, porre domande, segnalare questioni, portare testimonianze, e poi ci sono le possibilità offerte dagli SMS e dal WhatsApp: 349 238 6666. Se usate WhatsApp, anche messaggi vocali. Vedo che di là dal vetro mi guardano il concentratissimo Carmelo Lauricella davanti alla sua sfilata di bottoni e pirulini, e dietro di lui una spumeggiante Claudia Schiattone, e si chiedono: ma questo qua quando mai lancia il giornale radio del risparmio? Ora, ora lo lancio. Amore, i soldi. Ta-na-na-na-na-na. Allora Mauro, tra l'altro leggo con interesse le anticipazioni del Sole di oggi su una iniziativa prevista per domani che è molto allineata all'argomento che affrontiamo noi oggi, quindi casa, mutui, l'impatto del virus nel mercato immobiliare ma anche in quello turistico. Peraltro, te lo volevo anticipare, e anche un suggerimento che mi aveva dato il primo ospite di questa mattina che andremo a presentare tra poco, perché pare che in vista dell'estate, allora siccome non potremo andare all'estero, molti di noi non ci potranno andare, forse quasi tutti, vedremo se qualcosa succederà anche negli spostamenti, rimarremo tutti in Italia, quindi chi ha la seconda casa in una località di vacanza se la tiene e quest'anno la utilizza e non la affitta, e quindi tutte quelle famiglie che non hanno una disponibilità di una seconda abitazione la dovranno magari cercare, e questo tu vedrai quanto si rifletterà sui prezzi, ne vedremo delle belle da questo punto di vista secondo me. Ne parlate domani con il Sole 24 Ore in questa guida che esce? Ma certo, è una guida che è dedicata un po' a tutto il cambiamento nella vita immobiliare, verrebbe da dire, proprio dovuto al coronavirus. Ovviamente spazio ampio alle questioni dei mutui, le sospensioni dei mutui, i tipi di sospensione dei mutui, tra poco poi ne parliamo diffusamente con il nostro primo ospite. Intanto oggi comunque, Deborah, già c'è un primo fascicolo insieme al Sole 24 Ore in edicola, 100 giorni insieme al virus, che cosa abbiamo imparato per difenderci, una sorta di punto delle cose che abbiamo capito, che abbiamo saputo, quindi in dettaglio non solo le misure di distanziamento, le precauzioni che dobbiamo prendere, ma anche a che punto siamo con la corsa ai vaccini, con il tracciamento in Italia, nei vari stati, insomma tutte le questioni di cui quotidianamente sentiamo parlare, leggiamo sui giornali, sentiamo alla radio. A proposito di case, il super bonus del 110%, allora intanto tu mi spiegherai come funzionerà, almeno nelle intenzioni del governo secondo quello che sappiamo fino a questo momento, ma io ieri su questo tema c'ero andata, ti ricorderai, tu mi seguivi a distanza, perché c'era stata questa domanda di questo ascoltatore che aveva chiesto: ma come funzionerà questo super bonus? Significa che sarà lo Stato che interamente pagherà al posto mio tutti i lavori che io intenderò fare nel mio appartamento, oppure magari se in un condominio c'è bisogno di fare un lavoro piuttosto importante sarà lo Stato che pagherà direttamente per questa riqualificazione edilizia? E io avevo spiegato: no, secondo noi funzionerà secondo i criteri di tutti i bonus del passato, e quindi tu come contribuente anticiperai ovviamente il costo di questi lavori, ovviamente come abbiamo sempre tutti quanti fatto, dopodiché le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi saranno più leggeri perché questo sconto fiscale si scaricherà in qualche maniera appunto sulla nostra dichiarazione dei redditi, banalizzando molto il ragionamento. E invece sta a guardare che la verità sta nel mezzo, Mauro. Ma allora guarda, si sta immaginando, perché scusa, lo sai che io sono pedante, non c'è ancora niente in gazzetta ufficiale, manco è stato varato questo decreto legge rilancio che deve contenere anche questa misura, quindi stiamo parlando di ipotesi. Si immagina di ricorrere al cosiddetto sconto in fattura. Significa, io avrei diritto a questo bonus, che è un extra bonus, perché addirittura si immagina un 110% di quanto sostengo come spesa. Allora lo passo sostanzialmente a una banca, un intermediario finanziario, che poi si regolerà con chi mi fa i lavori, e io invece, in poche parole, non tiro fuori neanche un centesimo. Allora, devo dirti che ci sono dei precedenti per lo sconto in fattura con importi non del 110% ma un po' meno, e non hanno avuto un grande seguito, perché è sempre difficile, come dire, trovare il punto di equilibrio tra le esigenze di chi deve fare i lavori, le esigenze di chi fa i lavori per il contribuente e le esigenze delle banche, degli intermediari finanziari che si trovano vedo a gestire limite, questo Mauro. Passaggio. Vedremo, lo leggeremo. Adesso carichiamo le banche anche di questo ulteriore adempimento, non saranno molto contente dato quello che devono fare in questo passaggio delicato della nostra vita. Allora senti, rapidamente io andrei subito a dirlo a Due di Denari, perché c'è da fare qualche correttivo, qualche precisazione anche sulla puntata di ieri, poi andiamo al primo argomento di oggi. Sei d'accordo con me? Ma certo, ma anche Carmelo lo è. Bene. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, sono Giancarlo da Genova. Volevo sapere cosa succede in realtà al BTP Italia se malauguratamente dovessimo uscire dalla zona euro. Grazie. Buongiorno, vorrei sapere se non si riesce a tenere il titolo fino alla scadenza, il premio fedeltà dell'8 per 1000 ovviamente non viene erogato, ma quale sarebbe se si vendono per esempio i BTP dopo un anno? Qual è il premio che viene erogato? Grazie, Rossella da Roma. Il premio di fedeltà dell'8 per 1000 sarà lordo o netto? Grazie, Elena da Venezia. Allora, rispondiamo solo ad una delle tante. La prima la vorrei lasciare proprio da parte, Mauro, perché... No, vabbè, se, diciamo che se usciamo dalla zona euro si genera un tale cataclisma che a quel punto... Che il rimborso del BTP Italia è l'ultimo dei problemi di tutti. Mi sento di condividere la tua opinione, sì. Esatto. Invece sugli altri fedeltà... due... Si chiama così perché lo devi portare a scadenza, per cui però lunedì rifacciamo la puntata, allora noi mettiamo da parte nel nostro serbatoio queste domande e lunedì le rigiriamo ai nostri esperti, oltre a Davide Iacoboni, capo della direzione del Ministero dell'Economia e del Debito Pubblico, che ritorna con noi, ci saranno anche altri professionisti del risparmio, ci faremo esattamente raccontare lordo netto, commissioni, funzionamento, rendimento, tra l'altro venerdì avremo il rendimento minimo garantito di questa prossima operazione di questo titolo, per cui state lì ancora un po' con pazienza ad aspettare tutte le risposte che vi daremo lunedì prossimo. Se volete potete risentire sul nostro sito nei podcast, cioè la trasmissione registrata, potete risentire la puntata di ieri nella quale appunto Deborah ha duettato con Davide Iacoboni facendosi spiegare tutta una serie di caratteristiche di questa emissione che comincia proprio lunedì prossimo il 18. Andiamo con Homo Covid, ti va Deborah? Sì, grazie. Dai. Allora sì, siamo partiti proprio da qualche giorno sul sito di Radio 24 con lo sportello Homo Covid, è un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con Consumerismo, una rivista online per i consumatori, e quindi la stessa, le stesse informazioni che trovate su Radio 24 le trovate anche su consumerismo.it. Il nostro obiettivo è stato quello di raccogliere tutte le tantissime domande che ci arrivano da parte degli ascoltatori a cui non possiamo dare una risposta in diretta, spesso facciamo fatica anche nella nostra bottega pomeridiana a smistarli, ad accontentare tutti, e quindi le abbiamo un po' accorpate, Mauro, no, per argomenti, e di conseguenza se c'è una persona che chiede per esempio come funziona con il mio abbonamento con la palestra, mettiamo domande e risposta sul sito di Homo Covid e quindi tutti potranno andare a vedere con che criterio si deve risolvere quella situazione. Un vero e proprio prontuario, non medico in questi casi, ma un prontuario di servizio per tutti coloro che hanno bisogno di capire anche dove andare a cercare le informazioni, perché Mauro, il punto vero è stato questo: noi abbiamo avuto talmente tante necessità in questa fase che facciamo fatica anche a orientarci, non abbiamo molto spesso anche come individui, come cittadini, gli strumenti per capire dove andare a cercare esattamente l'informazione che ci serve, quindi noi abbiamo voluto essere un po' un servizio in questo senso, e quindi stamattina facciamo un po' un esempio dell'attività che svolgiamo con anche la persona con cui la facciamo. Esatto, e diamo il benvenuto. Fai gli onori, certo, di casa, perché tu sei proprio lì a casa, esatto. Allora io do il benvenuto, anzi il bentornato naturalmente a Luigi Gabriele, che è editor di consumerismo.it, e intanto aggiorno anche gli ascoltatori che hanno piacere di seguirci sui social, perché stiamo per twittare anche il riferimento diretto per arrivare nel sito di Radio 24 proprio su Homo Covid, proprio sulla pagina di Homo Covid. Buongiorno, buongiorno Luigi Gabriele e bentornato. Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i omi Covid italiani e non solo. Allora, cosa possiamo sottoporre subito a Luigi Gabriele, Deborah? Guarda, allora prendiamo la domanda regina che ci arriva. Abbiamo preso spunto dal quesito di Adriana, una nostra ascoltatrice, per rifare di nuovo l'ABC su come funziona in questo momento per mutui e prestiti che le famiglie hanno bisogno di sospendere. Sono una lavoratrice dipendente attualmente in cassa integrazione, voglio sapere se è possibile la sospensione dei finanziamenti in atto e come fare. Nello specifico ho in attivo un finanziamento con la banca, quindi un prestito personale, e la rata dell'auto. Luigi, cosa deve fare Adriana? Intanto permettimi di fare di dire una piccola cosa. Sono andato su Google Trend nel mentre voi parlavate, Google Trend sarebbe il motore di ricerca che ci fa capire quali sono le cose più ricercate online, ok? E ho messo due parole, finanziamenti e mutui, e sono andato a vedere che cosa è successo. C'era un piattume totale a partire da maggio scorso su questo termine, sia su finanziamenti che su mutui. È straordinario vedere come dal 16 febbraio in poi questi due termini sono esplosi, addirittura sono esplosi collegandoli ovviamente a altri termini come Covid, come finanziamenti, sospensioni, fondo perduto, moratoria, eccetera, eccetera. Perché? Perché in realtà, come dicevi tu prima, non c'è un unico contenitore di informazioni, per quello abbiamo fatto Homo Covid sul sito di Radio 24 nelle iniziative speciali, proprio perché il consumatore non sa dove andare a cercare delle notizie certe, perché ricordiamo la faccenda della sospensione dei mutui e dei finanziamenti, mentre i mutui nel primo provvedimento del cosiddetto Cura Italia rientravano nelle cosiddette misure che il governo, agganciandoli all'operatività del fondo di solidarietà per i mutui, il cosiddetto fondo Gasparini, il fondo acquisto prima casa, permetteva che cosa? A coloro che avevano stipulato un mutuo, inizialmente soltanto almeno aver fatto la stipula 12 mesi antecedenti a quanto accaduto, di poter accedere a questo fondo Gasparini, che prevede sostanzialmente il fatto che se hai i requisiti, ovvero mutuo prima casa e oggi esteso fino a un valore di 400.000 euro, puoi accedere a questo fondo che ti permette, ti aiuta a sospendere le rate fino a 18 mesi e ti copre il costo di quanto vai a maturare in quel periodo di 18 mesi per il costo aggiuntivo che si va a produrre per il fatto che tu stai sospendendo il mutuo. Il 50% di questo costo lo Stato ti aiuta a compensarlo attraverso il fondo, ma questo significa non è che si interrompe il pagamento integrale delle rate, no, si continuano a pagare la parte relativa alla quota di interessi, si sospende la quota capitale, si maturano degli ulteriori costi, su quei costi maturati lo Stato ti aiuta. Siccome che la platea era molto corta, era molto bassa, perché la prima casa teneva fuori tutti coloro che avevano aperto un mutuo magari per ristrutturazione o per altro, allora recentemente, soltanto due settimane fa, l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, insieme ad alcune associazioni consumatori, hanno deciso di fare un qualcosa che non è imposto dallo Stato, ma che è un provvedimento che hanno concordato le due parti, che riaprono la possibilità di accedere a una sospensione più larga anche per coloro che non avevano accesso al fondo Gasparini, quindi al fondo mutui prima casa. E rientra anche le persone fisiche per i mutui accesi per la ristrutturazione degli immobili ipotecari, la liquidità o l'acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, insomma tutti coloro che non rientrano nei benefici previsti dal fondo Gasparini. Per i prestiti c'è da dire che lo Stato non ha introdotto alcun tipo di provvedimento. Il provvedimento che è stato adottato è sempre un provvedimento di natura bilaterale, cioè concordato tra chi eroga mutui e finanziamenti e prestiti e chi invece difende i consumatori, che hanno deciso di adottare un provvedimento che tu vai a verificare se hai requisiti attraverso il tuo intermediario, ovvero colui che ti ha erogato il finanziamento o il mutuo, che può essere una banca, che può essere un gestore, chiunque sia. Tu vai, chiedi di aderire, se hanno aderito, a questo provvedimento che hanno adottato sia le banche che Assofin che altre organizzazioni, ma è un provvedimento che deriva sostanzialmente dalla volontà delle parti, non c'è un obbligo di legge. Questo è l'errore di fondo principale, perché gran parte dei consumatori pensano che ne hanno diritto e purtroppo no. Si formula una domanda a colui che ti ha erogato il tuo finanziamento, si verifica se aderisce a questo accordo e nello stesso tempo, se il consumatore ha i requisiti, allora si può procedere alla sospensione anche in questo caso. La sospensione, certo, parziale, continua a maturare dei costi e così via. Rapidamente, Luigi, che poi dobbiamo andare in pausa per la borsa e poi andiamo al secondo tema. La domanda che ci arriva invece da Silvia, la sintetizzo. Affitto annualmente una piazzola in un campeggio in Liguria. Su questa piazzola da 20 anni ho installato la roulotte di mia proprietà. Pago 3.000 euro l'anno per l'uso della piazzola e i servizi del campeggio, ma il campeggio, che apre di norma da marzo a novembre, ancora quest'anno non ha evidentemente aperto e chissà se aprirà. Posso rivalermi sul proprietario del campeggio per i mesi mesi non usufruiti? Mi è sembrata molto strana questa domanda. Se la signora continua a tenere la roulotte in questa piazzola, perché deve chiedere di non pagare l'affitto? Ha diritto di farlo, Luigi? No, allora, bisogna verificare se c'è un'impossibilità sopravvenuta o un'eccessiva onerosità sopravvenuta. Con le misure introdotte dal governo per il Covid-19, gran parte di alcune prestazioni non sono più possibili o sono diventati possibili soltanto temporaneamente. Il nostro ordinamento, adesso non faccio tutta la storia del codice e così via, introduce queste fattispecie che si chiamano appunto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Bisogna vedere se la signora, in concomitanza con l'entrata in vigore delle misure del Covid, in effetti non ha potuto godere, così come previsto, da un contratto, perché la cosa fondamentale è che ci sia un contratto, e molto spesso scopriamo che non ci sono contratti, quindi comunque preavvisiamo ai consumatori di verificare quanto hanno pattuito e stipulato. Nel caso in cui hanno stipulato una prestazione che in questo momento non possono godere, quindi c'è l'impossibilità o è diventato troppo eccessivo rispetto a quanto effettivamente concordato, se l'altra parte non può dare questa prestazione al consumatore, allora le parti, in maniera negoziata, prima suggerisco, perché io eviterei di andare a cercare lo scontro in tribunale, tanto più in questo momento, possono negoziare eventualmente per una riduzione del prezzo o una rivisitazione delle condizioni che erano state pattuite nel contratto. Quindi la signora sì, no, non lo sappiamo, deve mandarci un contratto che è stipulato con la controparte, verifichiamo le clausole e le condizioni, scrive alle due file che abbiamo posto su Homo Covid e diamo le indicazioni. Quindi il punto proprio, ecco, chiudiamo così, non esiste proprio poi una regola universale che vale per tutti, dipende effettivamente poi qual è la relazione contrattuale che esiste fra le due parti. Caro Luigi, grazie per essere stato con noi, andate a vedere Homo Covid sul sito di Radio 24, iniziative speciali, andate su consumerismo.it, sulle altre domande in sospeso torneremo nei prossimi giorni, perché qua Mauro chissà quanti bisogni ancora dovremo soddisfare dei nostri ascoltatori. Io segnalo solo gli indirizzi per la posta elettronica, duedidenari@radio24.it per questa iniziativa, oppure assistenza@consumerismo.it. E adesso le borse. Questi due, la Rosciani e la lì, tutto con sta pergamena, con sta cacchè. Due di denari. Buongiorno, una domanda. Ma il bonus Renzi, che da 80 euro era passato a 100 euro a partire da luglio, è sempre valido oppure no? Buongiorno Mauro e buongiorno Deborah, sono Mauro da Milano. Riguardo le vacanze estive, si parla tanto di distanziamento qua e là, ma sicuramente ci sarà molta distanza tra i bagnanti, perché chi è che ha i soldi per andare in vacanza quest'anno? Grazie e buona giornata. Vabbè, ci sono anche persone come me, la mia famiglia, io sono marchigiana, abito in prossimità del mare, da casa mia ci posso andare anche senza necessariamente dover pagare tutta la vacanza, ho questa fortuna e quindi però dovrò rispettare le regole del distanziamento in spiaggia, quindi non è che si tratta solo ed esclusivamente delle persone che andranno in vacanza al mare, Mauro, arrivando chissà da dove, c'è anche chi abita lì, ecco, e deve rispettare le stesse regole. No, lo so, a questo punto però vorrei essere considerato un tuo affetto stabile, poiché andiamo in onda da diversi anni oramai insieme, così magari un bagno me lo posso fare anch'io. Ma sulla spiaggia vicino a casa tua. Guarda, c'ho ben 3 nipoti da custodire con te, se ti candidi anche a fare un po' il badante con me dei 3 piccoletti, molto volentieri. Ah, pensavo il badato. Allora, abbiamo in collegamento, parto per galanteria ovviamente, nonché per l'ordine alfabetico per cognome, dalla collega Paola Dezza, che è esperta di valore mondiale del mercato immobiliare, nonché colei che si occupa della sezione Real Estate nel sito del Sole 24 Ore. Paola, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. E poi abbiamo in collegamento Luca Rossetto, che è il CEO di Casa.it. Buongiorno, dottor Rossetto. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovata Paola. Allora, Deborah, da dove vogliamo partire? Perché leggo cose che non riesco a decifrare. Alcuni dicono, però il mercato residenziale diventa interessante. Alcuni dicono, il mercato residenziale subirà un ulteriore schiaffo e quindi le quotazioni si abbasseranno. Certo. Poiché no, il sì e il no nel capo mi tencionano, come avrebbe detto il poeta, io chiederei subito a Paola come la vede. C'è anche un terzo elemento, ci metto, se il capovolgimento digitale della vita professionale di tutti sta in qualche maniera offrendo anche delle opportunità a questo comparto, perché in realtà leggevo che Paola ha considerato che non è così, va bene poter fare le visite virtuali all'interno di abitazioni che sono potenzialmente di nostro interesse, ma Paola, andarle a vedere direttamente non è esattamente la stessa cosa. Esatto, è un'altra cosa. E poi diciamo che la visita per capire se l'abitazione può avere qualche vizio occulto alla fine si rende necessaria. Devo dire che tutte le agenzie si sono strutturate per far fare visite virtuali, per accompagnare il cliente in quella che è tutta la prima parte, diciamo, della conoscenza dell'immobile, della ricerca. E questo ben venga, perché in questo momento è sicuramente necessario. Non tutti devono cambiare casa, ma chi ha questa necessità deve comunque fare una ricerca, iniziare a vedere degli appartamenti e fare una selezione. Per cui questa prima parte, diciamo, è una parte che ormai sta diventando sempre più rilevante per quanto riguarda le agenzie immobiliari e anche l'approccio da parte del cliente. Poi c'è comunque un'ultima parte che deve essere sempre fatta con una visita in loco, con un rapporto anche individuale tra cliente e agente immobiliare. Per quanto riguarda il mercato, diciamo che le previsioni sono di due tipologie. Una previsione di una discesa, comunque di una contrazione del mercato più soft, dovuta a questi due mesi di chiusura totale delle agenzie, quindi di impossibilità tutto sommato di definire delle compravendite, e invece uno scenario che più pessimista, che vede diciamo un impatto molto pesante da parte del coronavirus, dovuto anche all'impatto della situazione economica. Nel momento in cui ci sarà una crisi economica nei prossimi mesi, una crisi anche di termini di disoccupazione, questo chiaramente creerà dei problemi per il mercato immobiliare più pesanti, perché mancherà la disponibilità economica delle famiglie a comprare una nuova casa. Quindi in questo momento si rimandano quelli che sono gli acquisti non necessari, quindi l'acquisto del bilocale da mettere a reddito viene rinviato, l'acquisto della casa per il figlio viene rinviato. Chi invece vuole cambiare casa si guarda comunque attorno. Però sui siti di intermediazione in realtà a quanto pare la ricerca di informazioni sul mattone è stata in ogni caso molto vivace, magari approfittando di queste lunghe giornate in cui dopo il lavoro smart working siamo dovuti rimanere a casa, magari qualcuno particolarmente appassionato di questo settore o magari anche a caccia di opportunità di investimento in questo settore si è messo alla ricerca con un po' più di attenzione rispetto al passato. Luca Rossetti, Rossetto, casa.it, cosa ci racconta in questo senso? Noi abbiamo un osservatorio particolarmente privilegiato perché abbiamo 30 milioni di visitatori al mese, quindi riusciamo a misurare nel rigoroso rispetto della privacy tendenze e preferenze. Quello che ha detto è assolutamente confermato, nel senso che dopo uno shock iniziale nelle prime due settimane in cui tutta la società civile si è trovata di fronte a un'esperienza traumatica anche dal punto di vista psicologico, oltre che operativo, le ricerche sul nostro portale della casa sono cresciute, sono superiori rispetto all'anno precedente e sono ricerche non solo di coloro che vogliono sfogliare il catalogo magari dei sogni o dei desideri, ma anche di persone che sono interessate effettivamente a contattare un'agenzia immobiliare per avviare un discorso di acquisto o di affitto. Noi abbiamo tre fonti di informazioni. La prima, come ho detto, sono le numerosissime visite che vengono fatte sul nostro portale dai consumatori. La seconda sono le analisi di dettaglio che facciamo sul mercato delle famiglie italiane. E la terza sono anche le interviste e le ricerche che facciamo chiedendo le opinioni dei nostri 14.300 clienti che sono agenti immobiliari, che quindi sono sul campo o sul marciapiede, che è il posto più nobile del business, tra l'altro. Allora, su questa diciamo percezione di casa.it mi fermerei un attimo, Deborah, perché sta per scoccare il 45esimo e a questo punto l'arbitro, come sempre, fischia il traffico. Due di denari. Compreremo Eccoci casa, ritrovati. Cambieremo casa, sì, sì, Deborah, sì. Che facciamo? Chissà, guarda, ci magari... Ci chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666. Cosa vogliono sapere? Ma più che altro vogliono una valutazione, credo di cogliere un po' questa tendenza, anche come tempistica dell'investimento. Cioè, mi conviene muovermi subito perché magari in questo momento ancora di incertezza potrei trovare qualche occasione migliore, o mi conviene aspettare un momento, magari tra un po' invece arriveranno occasioni ancora migliori? Io non so cosa ne pensano i nostri due esperti. Da chi vuoi cominciare? Chiediamo direttamente, ricominciamo con l'ordine all'insegna della galanteria, quindi Paola Dezza. Peraltro ci aggiungo anche probabilmente un approccio diverso alla ricerca dell'immobile, visto che è abbastanza plausibile pensare che molti di noi lavoreranno in modalità diversa, forse a lungo e forse anche per sempre. Chissà se adesso la ricerca della casa dovrà valutare anche questi aspetti. Lo spazio in più, il lato ufficio, presumibilmente, Paola, non mancherà più nelle ricerche future. Senz'altro. Dico prima due parole sui prezzi e poi su come sta cambiando effettivamente, come cambierà la domanda. Allora, diciamo che tutti gli istituti di ricerca e i network principali sono abbastanza concordi nel vedere una lieve discesa dei prezzi quest'anno e l'anno prossimo. Siamo nell'ordine del 2-3%, quindi ci sarà un ritocco, non ci sarà un crollo dei prezzi sicuramente. Ci sarà più che altro un calo delle compravendite dovuto proprio ai due mesi di chiusura totale. Per cui, dato che l'investimento immobiliare è un investimento soggettivo di scelta delle necessità di una famiglia, bisogna vedere le proprie necessità per capire se è il momento di comprare oggi o se è il caso di aspettare. È probabile che si possa contrattare un pochino di più il prezzo, arrivare a uno sconto superiore se chi vende ha necessità di vendere, quindi ha necessità di reperire liquidità. Questo per quanto riguarda i prezzi. Invece per quanto riguarda la domanda, visto che abbiamo passato due mesi chiusi nelle nostre case, ci siamo resi conto di quelli che sono i limiti delle nostre case. Quindi ci si è resi conto che magari manca la stanza in più, che magari manca l'angolo dove mettere un tapis roulant per fare un po' di sport, manca il balcone o manca il terrazzo. Quindi è presumibile che la domanda possa cambiare prossimamente, possa cambiare e possa cercare case più confortevoli in vista del tempo che passeremo sempre più, diciamo, numeroso all'interno della casa, per lavorare, per studiare, per fare anche un minimo di sport. Quindi c'è necessità di cambiare proprio anche l'aspetto interno delle case e quindi lo spazio che è necessario. Quello che è mancato di più a molti è stato proprio lo spazio esterno, soprattutto in città. C'è un piccolo terrazzo, un piccolo balcone dove prendere una boccata d'aria, perché due mesi chiusi in casa sono stati effettivamente molto lunghi. Vediamo se già questo risulta nelle ricerche di casa.it, Luca Rossetto, la ricerca del balcone. Se c'è stato un po' una corsa al balcone, è avete un visto filtro importante, una esatto. crescita. L'avete magari cambiato i filtri per... No, lo dico esatto. sorridendo, però forse non è invece in realtà un filtro no. molto importante. Non so, Rossetto, mi dica, mi spieghi. Le parole addirittura utilizzate nel motore di ricerca, che rispondono a giardino, terrazzo, luminosa, grande, esposta, sono raddoppiati o triplicati in termini di incidenza. Questo esprime i desideri, perché poi la possibilità, soprattutto nelle grandi città, soprattutto nelle aree centrali, di ottenere queste cose, magari con dei budget limitati o ragionati, è più difficile. Abbiamo anche notato uno spostamento delle ricerche nelle zone limitrofe delle grandi città, perché appunto offrono la possibilità di avere spazi verdi o avere un rettangolo di cielo in modo più accessibile. E questo è qualche cosa che, se confermato in modo strutturale, potrebbe cambiare un po' il panorama anche delle dinamiche dei prezzi. Sulle dinamiche dei prezzi devo dire che l'Italia è molto diversa. Milano ha conosciuto prezzi di ripresa ormai da un anno a questa parte, e questa crisi dal nostro punto di vista aumenterà il divario fra zone calde, cioè zone felici dal punto di vista del rapporto domanda-offerta, e zone invece depresse, che sono tante in Italia e probabilmente vedranno allontanarsi la possibilità di una ripresa dei prezzi nel tempo. Quindi un valore medio di calo dei prezzi è abbastanza poco indicativo, perché è una media fra Milano città, che è obiettivamente una città europea con una fortissima domanda, e Vigliano Biellese, da cui vi parlo, che è un posto dove c'è meno domanda, diciamo. Sono depressi a lungo e rimarranno depressi a lungo. Beh, come anche prezzi, se anche per città, carità. Esatto, anche se città come Milano, Mauro, comunque dal punto di vista del rapporto domanda e offerta, secondo me qualche cambiamento appunto lo dovremmo registrare, perché stavo pensando a quello che succederà dal punto di vista del flusso degli studenti universitari. Ne parlavamo proprio ieri, Mauro, no? Considerando la pagina che ha fatto il Sole 24 Ore sulla riapertura dei poli universitari, che è molto rinviata nel tempo, nei mesi, e quindi presumibilmente anche gli affitti per gli studenti subiranno un radicale cambiamento. Pertanto anche la famiglia che mette a reddito un piccolo monolocale destinandolo proprio all'affitto per studenti universitari, adesso magari quello non sarà più un business per un po' di tempo profittevole come lo è stato fino a questo momento. Quindi che ne pensa anche dal punto di vista qualitativo? Le città che hanno tirato Rossetto tireranno in maniera diversa, e nella fattispecie appunto mi riferisco a Milano, magari anche Roma in questo senso. Non c'è dubbio, il fenomeno sociologico del cambiamento di abitudini, di modalità di lavoro, di spostamenti all'interno del territorio che l'emergenza sanitaria ha innescato è fortissimo, e siamo più o meno tutti consapevoli che avrà delle conseguenze nel medio termine. I cambiamenti più importanti non sono quelli che vedi immediatamente all'apertura di una crisi o alla fine di un'emergenza, ma quelli che questi fatti innescano nel tempo, e quello delle abitazioni per studenti e dell'attrattività delle abitazioni per studenti come investimento è assolutamente uno di questi. Non vedremo qualche effetto a settembre sicuramente, ma questa in realtà è il punto di flesso che determina un trend nuovo nel medio termine. Rossetto, lei ha detto una cosa che mi ha incuriosito, perché ci stavo un pochino meditando anche io per via delle molte conference call, insomma tutte queste riunioni da remoto che stiamo facendo un po' tutti nell'era dello smart working forzato. Forse diventano però più interessanti le zone, lei diceva prima, anche limitrofe alle grandi città, perché se una volta insomma prevaleva anche la difficoltà poi di doversi spostare per andare al lavoro, se il lavoro diventa più facile da remoto, più agile appunto, per non usare il termine smart working, allora potrebbe essere interessante trovare casa nelle immediate vicinanze, magari ben collegate. Avete visto qualche mutamento di questo tipo? Sono segnali precoci, evidentemente, frutto anche di uno shock di cui parlavamo prima. Però sì, questo è un cambiamento. Abbiamo tutti, o meglio, molte aziende, inclusa la nostra, che è un'azienda molto digitale, ha imparato a lavorare a distanza. E vi sono professioni che già questo lo fanno, però molta più gente, molte più aziende si sono accorte che si può fare. E quindi questo determina un cambiamento anche nella scelta della località in cui cercare casa in affitto per acquistarla. Quindi sì, è così. Teniamo conto che anche qui non confondiamo città come Milano o Roma o Torino con il resto dell'Italia, perché l'Italia ha una caratteristica rispetto ad altri paesi. La concentrazione nelle grandissime città è molto più bassa che in Spagna, in Francia, in Germania e in Inghilterra, quindi l'Italia è molto più distribuita, diciamo. Paola, siamo concentrati molto sul residenziale, ovviamente parliamo soprattutto del residenziale, però sul sito del Sole 24 Ore, la parte real estate, c'è molta attenzione anche a tutti gli aspetti lavorativi che stanno un pochino interessando poi di riflesso anche il residenziale. Ad esempio il co-working che sta ritornando, sta insomma suscitando un interesse crescente, mi pare di capire, Paola. Sì, diciamo che è stato uno dei settori colpiti. Gli grandi operatori si stavano attrezzando per realizzare spazi di coworking, era uno dei segmenti vivaci, seppur di nicchia, del real estate. È stato tra i più colpiti dal lockdown, insieme ad alberghi e insieme agli affitti brevi sostanzialmente. Adesso si stanno strutturando cercando di riconvertire anche questi spazi in base alle nuove regole che vengono definite per gli uffici, sia co-working che non per gli uffici normali, quindi il distanziamento, quindi percorsi prestabiliti per i dipendenti in modo tale da incrociarsi il meno possibile, diciamo anche se pareti di plexiglass piuttosto che di vetro delle varie scrivanie, quindi si stanno attrezzando per tornare a fornire questi spazi per chi ha lavorato in casa e vuole uscire e magari incontrare, seppur a distanza, le altre persone. Si sta creando tutto un tema di consulenza per quanto riguarda gli spazi interni, per come dovranno essere riadattati in base alle regole per mantenere il distanziamento sociale, ed è un tema molto importante questo per quanto riguarda i grandi investimenti anche in ufficio, perché abbiamo letto proprio su Sole 24 Ore che si è ripartito in questa seconda fase, ma molte delle grandi torri sono quasi vuote, c'è il 10% dei dipendenti in questo momento a Milano, per esempio nelle torri di CityLife. Quindi anche questo è un tema molto importante per capire un domani gli spazi per uffici, come verranno riconvertiti, se ci sarà una diminuzione anche della richiesta degli uffici nuovi da parte delle aziende. Molto bene. Cara Deborah, bene. Siamo agli ultimi 20 secondi. Allora, sì, non toccavamo il mattone da un po', quindi intanto mi fa piacere stamattina aver fatto un affresco molto generale rispetto a questo cambiamento che sta subendo anche questo settore a causa del virus, ma ci ritorneremo perché è un tema sempre molto apprezzato dai nostri ascoltatori. Ed è ovviamente anche un'opportunità sempre di investimento, certo, impiego del denaro. Allora, grazie a Luca Rossetto, CEO di causa.it, grazie a Paola Dezza del Sole 24 Ore, e noi torniamo domani, parliamo ma di lavoro. Ma io quasi quasi oggi pomeriggio vengo in ufficio. Oh, ma allora magari ci vediamo a distanza. Aspettami che arrivo. A dopo.